Dunque, io sono stata questa volta con una roba di dire in offerta. Dai, ho capito. Non cazzo di palo, va. Portali qua e soldi ce ne troppi, dalli qua in Italia. Mettesla. Soldi, soldi. Sempre soldi bisogna fare, sempre soldi. Tutti i giorni. Cento euro al giorno con un unico di torno, e sai, cos'è il problema, no? Quindi, porta 100 euro al giorno, non c'è problema. Almeno 100 euro a disposizione al giorno. Ok, spacchetto. Pronti, pronti, pronti, ci sei Gianni? E io qua sono, vabbè. Oggi di ex nulla. Non mi interessa a me, lo sai. I già ti interessavano prima, facevi di ex in spagnolo. Sembravi uno spagnolito. Ma tu veramente hai fatto un di ex per dire. Perché molto andavo solo, con la Sicilia. Ha preso e fuggito quello. Ma se no, non ho fatto qua da fine, maestro, che ha chiamato... Mi ha chiamato la Germania e mi hanno detto l'appartamento vaffanculo Italia. Tutto invece ho fatto, ma parlavo solo con siciliano, ho fatto collegamento, ho detto vaffanculo, andi per lei, ci detto. Così ho detto il chiamo, mi chiama vaffanculo. I tedeschi stanno rispondendo male sempre. L'Austria dice che addirittura ha detto no, non ci parlo con l'Italia, però educatamente. Invece loro hanno una macchina fanculo. Brutti animali. Oggi l'ho visto lì, c'è lui tutto il mondo, eh? E beh Gianni, Gianni, cosa fa il culo? E beh Marco, c'è tutto il simone, io e tu. Sono stato il ex morto al mano solo. Buonasera a tutti, scusate l'entrata violenta. Ciao Marcolino Condor. Salve a tutti. Oh, ero sul canale su 92, ho provato a mettere il kilohertz indietro, ho messo a praticamente anziché 27915 l'ho messo 27911 e sono i canali inglesi e mi hanno sentito chiaramente, arrivava anche 995. Ma in inglese? K, inglesi in FM, inglesi in FM, però sui canali inglesi che sono spostati di persone, che sono spostati rispetto ai nostri. Un attimo, c'è Gianluca che sta facendo qualcosa, avanti Gianluca. Via, no, pensavo che c'era Giampaolo, stavo provando a chiamare, ho sentito una schiacciata, dai. Ti ho chiamato e non mi ha risposto, lo vedi, mo scatto lì. No, mi ha approfittato, sono andato in bagno, solo mi stavo pisciando addosso, capito? Ah, e tu portati il vasino lì così non si rimuove. Mica è entrato Alessio, Pomponio e anche Marco Condola, avanti. Infatti se stavo a ciabattare, ho detto no che mi è impressionato, oggi sono uscito camminando, non si sa mai. Se mi siamo morto, mi diciamo sai, sono guai, mi sono fregato. Non lo sai che a trattenerla fa male alla bici, che a volte di notte non mi la rigore a bisammini e cerco di trattenerla, la dottoressa che fa molto male alla bici. E poi praticamente ti si allarga e non ti si chiude il coso, lo sfintere, se stai a trattenerla così. E praticamente si verifica quel fenomeno che c'ha le perdite, capito? Allora, se va così, facciamo così, a volte, cazzo, la notte, Gianni, tante volte mi trattengo perché cazzo non ho voglia di alzarmi. Però alla fine non ce la faccio più da mandare. Adesso dico io, se vado dopo non posso andare da prima. Per te invece cosa faccio? Io vado la bico, prendo una pinza a scatto e sono a posto, lo sai che non pisce per niente. Ma ti esplode poi la vescica. No, non succede niente, anche per fare capire che il cazzo. Il bello che quando poi tu dici una cosa, avete di colpo, dici e fa quello che devi fare, capito? In bagno. Tu lo fai dritto con un coso, un certo in realtà. Adesso non ha mai visto blocchi urinari, che una volta ne ho preso una di punti a 180, sono salito a sassare e si chirriene come un bizzino, non riusciva a urinare, cazzo, gridando, alla fine l'ho portato all'ospedale, pronto soccorso, gli attaccano il catetere, cazzo, ha riempito due catetere, dice ma signora, e quando mai l'ha portata adesso? Quando mai non si è accorta che non andava suo marito e cosa? E lui lo diceva, però pensavo che da un momento all'altro la faccia e se era previso e sabbisciato. Gialla con cosa, vista? E si chiude l'intindiano, invece ha avuto donna la Zassa. Sto dicendo che sono salito a era 180 con l'ambulanza, perché gridava come un matto. Hai visto? Niente, avevo ancora dentro. Ah, signora, vale con cuore, vale con cuore. E si è riempito due di quei cosi grossi, bidoni grossi, che si è riempito due. Immagina cosa c'aveva lui da questo dentro. Mi ha detto, ma poco non le scoppiava vicino, ha detto il dottore. Cioè, vabbè, non è matto, come va? Sto a posto. Tutto bene. Ogni tanto mi controllo l'antenna dalla strada per vedere se con il vento oscilla troppo, ma per adesso va. Io ho provato a vedere dove era, invece non sono riuscito a capire dove sia. Te la faccio vedere io già, quando vieni, c'è un punto dove si vede, solo un punto. Cava gava. No, ma ci ho provato a guardare, ma non sono riuscito a vederla. Ma, sì, vabbè, se interessa te io farò bene. Perché ti faccio uscire? Certo che deve essere bella quella che mi ha detto Pomponi, la Energy 5 ottavi, che è simile alla BA27L. Quella è 5 ottavi effettiva, Questa è una mezz'onda ed è anche la più scarsa delle mezz'onda. Contentati per il momento, poi mettiamo una mantoma direttamente, la mantoma turbo. Ehi no, troppo pesante, o Gianni, troppo pesante. Quella è leggerissima invece. Ok, vabbè, sono contento comunque che in FM, caspita, riesci a fare anche queste lontani. Su quel canale che ti ho detto, in Inghilterra, ho provato a chiamare e mi ha risposto. Ho parlato un po' borghesino perché certe cose in inglese non me le ricordo più. Caspita, a momenti arrivava anche 9.5 quel tipo, qua. Da te quindi figurati quanto. E vabbè, tu considera che fa doppia segnale in FM. Beh, qua no, qua AM/FM segnale lo stesso, diciamo la modulazione è più pulita. Anche segnale, anche mandala laterale, il doppio. Comunque, capito già come sono i canali inglesi, praticamente loro avevano una banda che arriva fino a 27,9. I canali loro sono spostati, sono di 4 kHz in meno, come se lo mettessi così, guarda. Ecco qua, sono fuori di 4, adesso normale. E in FM li senti chiari di sera, quando c'è propagazione. La voix dell'espérance. Ma detto che io li sento se non so parlare l'inglese. Sì che sono francesi, non so parlare, ma inglese. Anch'io ho fatto francese alle medie, però so più l'inglese, cioè poco. Gli ho chiesto, do you confirm that we are on UK channels? Cioè gli ho chiesto, mi confermi che siamo sui canali inglesi? No. Vabbè, scusate che adesso vado a fare la pipì anch'io, se no me la faccio addosso. Io per te non la posso fare, quindi vai tu. Avanti, oh Gian. Dimmi, sono qua. Camioncino non è entrato stasera. L'ho visto, cioè, siamo incrociati mentre lui stava tornando a casa, io con mia moglie e con i bambini, e stavo tornando a casa anch'io. Siamo incrociati, la Gisolanda che la bacia di dritto. La verità, l'ho visto 5 minuti nemmeno stasera. Non lo so, l'ho baciato qua a casa 5 minuti e poi è andato via. Non ha venuto no quell'apparecchio. Sono andato io l'altro giorno a vedere se avevano venuto anche la roba mia. E invece è tutto fermo, non ci va nessuno con le luci, rimane il mio vecchio tutto. Si può vedere questo apparecchio? Ah, via Relante. Ciao, domani mattina cosa c'è da fare? Sì, domani mattina non saprei, boh, vediamo dal medico di sera. No, perché se lui lo sta vedendo lì, metti che mi piaccia, lui fa meglio a ritirarselo e i soldi li do tutti a lui, capito? Sennò gliene vanno la metà. Ma si fanno pagare la penale, mi pare, per ritirarlo. Sono... Ah, così, non c'è un limite di tempo per cui lui se lo debba portare a casa, no? Allora, dopo 2 mesi loro te lo mettono al 25% in meno, mi pare, o al 20%. E poi, se vogliono, lo danno a questi istituti, se non lo vedono, possono andare agli istituti bisognosi, danno tutta la roba in donazione. Ma e quindi... la tua roba te la perdi, se non la vendi la perdi. Se non te la ritiri, sì. Ah, se non te la ritiri. Ascolta, e da quanto tempo ce l'ha Giuseppe il baracchino lì? Avete parlato in due, comunque ho capito, un mesetto. Vabbè, io dico così, magari non mi piace, ma a vedere si può vedere. Neanche una settimana ho letto, un mesetto, neanche una settimana. No, ce l'ha di più. Se io la roba l'ho messa più di una settimana, lì. E lui l'ha messa prima di me. Neanche una settimana, certo, sto dicendo io. Certo, se io l'ho parlato io, a 2 giorni, se mi allunghi. Ma c'è neanche una settimana, te lo sto dicendo io. C'è stata una settimana che è troppo, per dire a te. Vabbè, vado in bagno, dai. D'accordo. ricordo, fai col comodo, col comodo però, con due M. Bene, se ci siete, vi saluto, vado a mangiare. Vai, prima che mi promia, ritorna. E vediamo là se faccio in tempo là, se no riteretevi salutati. No, se mi dici che rientri ti aspetto, se no chiudo. Già, forse no, non farò in tempo, dai. Vabbè, vi saluto da adesso, da. Ciao Tonello, ciao Gianni, buonanotte. Ciao Marco, buona carica.